voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Grandi, una storia di merci, di navi e di idee. Di Andrea Ferro. Siamo di genovesi, ho passato parecchio tempo in mare. Beh, una seconda natura. Ma e poi è effettivamente questo elemento incredibile di bellezza e di possibilità. È una storia di mare, iniziata in un altro mondo e proiettata sul futuro. In fondo, nella sua irrequietezza, il mare non contempla confini, ma solo orizzonti da inseguire. Potrebbe essere la trama di un film, già è quella di un libro. Per raccontare l'avventura imprenditoriale della sua famiglia, Bruno Musso, infatti, ha scritto Il cuore in porto di Mursia Editore, testo che scivola veloce come vascelli carichi di merce col vento in poppa. È la storia di spedizionieri che diventano armatori, poi terminalisti. Due famiglie, Musso e Grandi, che si uniscono nell'Ottocento e sviluppano una vocazione. Alle origini Marcantonio Grandi era uno spedizioniere come ce n'erano tanti, uno spedizioniere che non aveva funzione di oggi, era un fiduciario del mittente, perché ovviamente non si telefonavano da Milano, non avevano, e allora mandavano la merce a questo fiduciario, il quale si preoccupava di trovare la nave idonea, di trovare il modo di trasporto idoneo, eccetera. Spesso addirittura la merce partiva non venduta, veniva affidata in fiducia al comandante, il quale, arrivato a destino, la vendeva al meglio e poi tornava e diceva: ho incassato tot. Raccolto il testimone dalle generazioni che lo hanno preceduto, Bruno Musso ha intrapreso la rotta. Lavoro e intuizioni a diporto tra due millenni in un turbinio di cambiamenti impostati e vissuti in prima persona. Io sono la quinta generazione, c'è attualmente in azienda la sesta dei figli e c'è la settima che sta per arrivare, e lì stanno facendo l'università, qualcuno finisce l'università e dovrebbe entrare. E in fondo quello che volevo spiegare ai nipoti: guardate che l'azienda non è una rendita, ma è una scommessa. In un mondo che cambia, o cambiamo continuamente o rapidamente non siamo più funzionanti. La mia memoria storica, 55 anni che lavoro in porto, è abbastanza significativa, perché ha vissuto il passaggio dal sistema più tradizionale ai sistemi più moderni. Quando io racconto che all'inizio andavo sotto bordo alle navi con i carri a cavallo, avevamo qui a Genova dei cavalli da tiro e portavamo i carri a recuperare la merce dello sbarco diretto del rame. Oggi non ci si riesce a credere. Per Grandi la svolta avviene sull'onda lunga del boom che sulla terraferma sta per esaurirsi, mentre in mare prende il largo. Cambia il modo di trasportare le merci. Le navi diventano sempre più grandi. Bruno Musso inventa le porta container. Il passo in avanti grosso l'ho fatto con mio fratello, quando a metà degli anni 60 siamo passati dall'essere spedizionieri agenti marittimi all'essere armatori. Nel 67 abbiamo messo le prime due navi portacontainer che facevano Genova-Porto Torres e Genova-Cagliari, vento del Golfo e vento di Levante. Navette poco più di un camion con l'elica. La prima addirittura portava 22 container. Oggi sulla Sardegna lavoriamo con navi da 1000 container. Queste ne portavano 20, una e 30 l'altra. Poi però siamo velocemente aumentati. Abbiamo allungato le due navi, poi abbiamo costruito una nave nuova di modello diverso, che poi ha avuto un certo successo col nome Taurus Class. Taurus era una delle nostre società, che ha già una nave da 160 container nel 69. Spedizionieri, poi armatori, quindi terminalisti. Una nuova stagione inizia per Grandi, una stagione a suo modo rivoluzionaria. che smuove la palude delle banchine, intacca il sistema delle corporazioni, nate secoli prima a fin di bene, ma poi diventate una zavorra fuori dal tempo. L'elemento portante della nostra storia è essere sempre un po' più avanti degli altri come tecnologia e con questo riuscire a fronteggiare una situazione di estremo handicap che c'è in Italia, perché in pratica il nostro settore ha il nucleo in porto. Se il porto non è adeguato, non riusciamo a evolverci. Noi come armatori intermodali gestiamo l'intero ciclo e lì nasce il terminalista. Noi ci siamo sempre fatti terminal in proprio, comunque il terminal per conto proprio, per conto terzi, è l'attività portuale gestita da un imprenditore in porto, che richiede uomini fissi, stabili, perché è un ciclo industriale come un altro. È come che la Fiat tutte le mattine dovesse chiamare in un gruppo di lavoratori generici che vanno oggi alla Fiat, domani alla Pirelli e dopodomani invece a un'industria chimica, degli uomini per lavorare. Non è pensabile. È l'inizio degli anni 90. Bruno Musso affronta la compagnia dei portuali, i celebri Camalli, come si chiamano a Genova. Un nome che deriva da camallare, cioè caricare. In realtà è la sfida a un sistema nel suo complesso. Bruno Musso da una parte, Paride Batini, carismatico console della compagnia unica, dall'altra. In verità, io e la compagnia dei portuali abbiamo vicariato la mancanza di intervento del nostro potere legislativo. Noi siamo in una società in cui il potere legislativo non assolve il suo compito. Questo discorso della riforma portuale era partito dagli anni 60 e non si era cavato un ragno dal buco e il porto stava chiudendosi. A quel punto bisognava cambiare. Abbiamo deciso di cambiare in banchina al posto di cambiare nelle aule del Parlamento. Così è stato. E secondo me anche Batini spesso è stato visto come il sommo male, quello che non vuole cambiare, e invece ha capito anche lui che il sistema non stava più in piedi. Però capire che non sta più in piedi e rinunciare a un privilegio non è facile, doveva essere costretta a farlo. E nello scontro, in questo scontro-incontro, in cui io e Batini personalmente avevamo un rapporto ottimo, a parte il fatto che lui quando mi incontrava diceva signoria Shubakan, che vuol dire signore padrone, signor padrone, no? Ma era il suo vezzo così, però c'avevamo un ottimo rapporto. E poi abbiamo capito che bisognava trovare un punto di equilibrio nuovo, quel vecchio non reggeva. Abbiamo fatto questo scontro che siamo riusciti a tenere entro limiti. La mia sicurezza in banchina era affidata a loro. Una volta ho visto due omini che mi hanno detto siamo della Digos, dico ho capito, ma poi c'erano 12 portuali fortissimi che impedivano a chiunque di avvicinarsi a me. Quella sfida in banchina con i portuali, pronti a impedire che la nave dei grandi potesse sbarcare e imbarcare le merci e la polizia schierata in forze, fece epoca e di fatto pure giurisprudenza. Da quella sfida venne la legge di riforma portuale invocata da tempo. Con compassata soddisfazione, tipica del genovese che non ostenta e preferisce far parlare i fatti, Bruno Musso elenca le testimonianze di un processo di innovazione continua. Negli anni 90 abbiamo per primi, credo in Europa, utilizzati i contenitori che non sono i contenitori ISO, sono i contenitori europei. Nel 2003 l'Europa sancisce queste misure del contenitore, che è un contenitore pallet compatibile, cioè in cui può entrarci dentro il pallet. Nel contenitore ISO di misurazione inglese, misurato in pollici e non in metri, gli inglesi non hanno il sistema metrico decimale perché non amavano Napoleone, e i pallet non ci entra. Quindi lei nel contenitore classico la nostra merce non ce la mette, e noi nel 2003 l'abbiamo fatto. E adesso, proprio quest'anno, abbiamo inserito nel nostro ciclo di imbarco le cassette. È una tecnologia che il Nord Europa conosce, che il Mediterraneo non ha ancora, che ci ha permesso di caricare la nave non più in 8 ore, ma in 2-3 ore. Siamo passati da 30 contenitori all'ora di velocità di imbarco a 180. Quindi un aumento enorme, che poi significa, noi abbiamo una serie di dati, dimezziamo i consumi, dimezziamo l'inquinamento. Sono tutte soluzioni che in un paese normale saremo una start-up di quelle che dice hanno inventato queste nuove, hanno queste, diamogli una mano. E invece... Correre, disarticolare le convenzioni e le convenienze, guardare in grande, progredire. A Genova tutto questo è un'onda che si infrange nelle secche, mentre attorno il mondo va avanti. Lo sguardo di Bruno Musso, armatore di lungo corso, genovese al midollo, è velato di delusione. E oggi l'evoluzione tecnologica ha dato a Genova, al porto di Genova, una possibilità enorme e la sta buttando via. Noi potremmo diventare il centro logistico del sud Europa, che vuol dire un aumento occupazionale enorme, per dire Amburgo faceva il nostro stesso traffico negli anni 70 e che oggi potremmo raggiungere abbondantemente a 300.000 posti di lavoro. In difesa di piccoli interessi, amaminu, questo un utio fè, perché, eccetera, stiamo buttando via. Ma è l'idea che tiene accesa la speranza. Genova è una striscia di terra tra il mare e l'Appennino. Il gigantismo navale propone e proporrà navi sempre più grandi, sempre più cariche di merci. Per intercettarle occorre saper garantire uno smaltimento rapido dei carichi. Il progetto di Grandi sono una galleria e una specie di bruco che colleghino il porto alla pianura padana, praticamente un passaggio sotterraneo riservato alle merci e orientato verso il cuore dell'Europa. Il nostro discorso, teniamo la nave qui e colleghiamo uno spazio oltre Appennino con la nave. Ma non le cose che dicono sempre, usiamo la ferrovia avanti e dietro. No, dobbiamo aumentare la potenzialità di 10 volte. Il nostro è una specie di nastro trasportatore su dei binari ferroviari, ma continuo, che può tranquillamente arrivare a 10 milioni di TEU, 10 milioni di container. È un'opera che si può fare anche abbastanza rapidamente, con costi anche non tanto elevati. C'è un precedente storico su Genova, molto interessante e molto particolare. Qui a Genova, Oscar Sinigaglia, cioè Italsider, ha inventato la siderurgia sul mare. L'ha quasi inventata, c'è un precedente in Giappone. Cioè, mettendosi in banchina, noi riuscivamo ad avere la materia prima a prezzo più basso di quello che aveva l'acciaieria tradizionale tedesca a bocca di miniera. Siamo diventati la quinta potenza industriale del mondo e uno dei grandi produttori d'acciaio d'Europa. Questo secolo è il secolo della logistica. Basarsi sui porti del nord Europa è duro mettere una logistica in concorrenza con la logistica tedesca. Il bruco è il salto qualitativo, esattamente come Oscar Sinigaglia. Questa e altre storie, in anteprima, inedite o in versione estesa, ma anche idee e novità per l'impresa, potete trovarle sul sito radio24.it, cliccando sulla pagina programma Voci di Impresa. E curiosando nella sezione Extra, a cura di Anna Marino, potete scrivere i vostri messaggi e le vostre storie. Voci di Impresa è anche Voci di Piccola Impresa, su Twitter con l'account @vocipmiradio24, su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa. A domenica prossima!